X24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Presidente Renzi, se perderemo questa sfida, la colpa sarà soltanto mia, lei ha detto. Non è così. Se perderemo questa sfida, la colpa sarà di tutti noi. Certamente di tutto il PD e di tutti coloro che oggi votano la fiducia al governo da lei presieduto. La solitudine al comando non funziona. La storia del ventennio alle nostre spalle dovrebbe essere chiara. Onorevole Francesco Boccia, presidente della Commissione Bilancio, buongiorno. C'è questo problema denunciato da Fassina e Renzi? Buongiorno. Sì, condivido integralmente le parole di Fassina. Ma una qualità o un difetto di Renzi questa? Ma guardi, nella vita può essere una qualità. Quando però si rappresenta un paese intero ed una vasta comunità politica con diventa il un difetto. Può essere un grande rischio. Io mi auguro che vada tutto bene, vabbè, mi auguro che si riescano a risolvere i problemi del paese, viceversa. Senta, ma questo governo, allora parliamo di cose concrete, è costruito con le competenze necessarie per risolvere i problemi o solo in funzione di un uomo solo al comando, come denuncia un po' Fassina? Guardi, i governi sulla carta non si giudicano mai, altrimenti si fa lo stesso errore che si commette quando si giudica una squadra di calcio ad agosto. Ah, giusto, vero. Sentiamo. Si giudicano sui fatti. Ad agosto hanno vinto tutto il campionato, questo tutti è vero, quanti. Tutti non hanno vinto. Non retrocede mai nessuno. A ottobre si cominciano a sostituire gli allenatori, è vero. Senta ancora un pezzo di Fassina. Il mio voto di fiducia non è il conferimento di una delega in bianco per svolgere i temi da lei elencati sul piano programmatico. Sul piano programmatico, voglio essere chiaro con lei, con il mio gruppo, vi è la più ampia disponibilità possibile, ma valuterò esclusivamente il merito dei provvedimenti che il governo porterà in Parlamento e offrirò come sempre il mio contributo costruttivo. Attento al merito, il merito guiderà le mie scelte. Grazie Presidente. Allora, onorevole Boccia, fiducia non deleghe in bianco anche per lei? Non c'è dubbio. Ma ha votato la fiducia, sì. Ma certo, tutti i democratici hanno votato la fiducia e questo tutti, è tutti? Il governo. Tutti, secondo lei? Penso di sì. Ora, ieri non ho controllato se ci fosse qualche assente, ma se c'è stato era solo sono state assente. Cause personali, sì. Senta, no, hanno votato tutti la fiducia. È evidente che il gruppo dirigente, la parte del Partito Democratico che ha voluto questa svolta, si sta assumendo tutta la responsabilità di questa svolta. Ovviamente avrà gli onori. Ma Renzi l'ha detto con chiarezza, ci metto la faccia, responsabilità è mia, quello l'ha proprio detto. Senta, ma lei immaginava tra Renzi e Letta un esito così traumatico? No, le confesso proprio no. Ma secondo lei è una rottura definitiva? Ma guardi, in politica le rotture non sono mai definitive perché le scelte vengono fatte dentro contingenze anche storiche che poi variano. Però questa è brutta. Però certamente c'è stata una lacerazione ed è sotto gli occhi di tutti, inutile essere ipocriti. No, infatti, per questo capita, lo chiedo. Come spesso capita nel rapporto tra politica e informazione, siccome noi due non lo siamo, io esatto. Le dico la verità, la lacerazione c'è stata. Senta, anche sul piano umano? Ritengo. No, lo chiedo a lei, sa perché lo chiedo a lei, onorevole Boccia? Glielo chiedo perché lei è stato un pontiere, o ha provato a essere un pontiere tra Letta e Renzi, insomma, missione fallita, diciamo, sostanzialmente. Completamente fallita, mi pare evidente, sì, perché ho creduto l'estate scorsa che la proposta politica di Renzi dentro il PD potesse rinnovare profondamente il Partito Democratico, soprattutto la sinistra italiana. Gran parte delle cose che Renzi ha detto al congresso io ho sottoscritto, l'ho anche votato, l'ho fatto votare, l'ho sostenuto quindi, convintamente, insomma, erano principi che, dei quali a mio avviso la sinistra aveva bisogno da 20 anni. Ma alla prova dei fatti nel rapporto Letta-Renzi si è lacerato tutto. No, guardi, non è il rapporto Letta-Renzi, attenzione, è il rapporto tra PD e Paese. Sa, se si fa un congresso dicendo voglio i voti di centrodestra e non i ministri di centrodestra, e poi si fa un governo di legislatura con i ministri di centrodestra, c'è qualcosa che non funziona. Ma lei ci crede all'orizzonte del 2018 per Renzi? Le confesso che non ci credo, non perché ci credo. Il quadro che abbiamo di fronte, io mi auguro che si possa arrivare al 2015 avendo fatto le riforme che Letta stava già iniziando a fare. E se mi permette di completare il concetto, certo. Prima, con Letta si aveva la certezza che l'alleanza con i partiti di centro e di centrodestra, escluso Berlusconi, che era fuori gioco, sarebbe stata un'alleanza a termine, a fine 2014. E invece all'improvviso è cambiato lo scenario, questa alleanza diventa di legislatura. Io vabbè, lei non ci crede, non ci crede. No, no, io sono tra quelli che farà di tutto per sì, ma per ha detto che l'orizzonte si facciano. Ha detto che l'orizzonte del 2018 gli sembra impossibile. Senta, abbiamo auspicabile, sentito ma difficile va da bene. Realizzare. Sì, vabbè, un po' di diplomazia. Abbiamo sentito nei discorsi di Renzi che la tempistica per lui è tutto. Secondo lei può rispettare la timeline molto rigorosa che si è dato? Glielo chiedo, gli dico subito perché glielo chiedo, perché lei presiede la Commissione Bilancio della Camera e sarà un po' l'arbitro di questa tempistica, perché tutto passa di lì. Renderà facile il lavoro a Renzi? Assolutamente sì, guarda, una persona leale, e soprattutto quando si risolvono i problemi. Io arrivo sempre il giorno prima, anzi la notte prima, e certo, penso che Renzi sia un efficientista, lo sono anch'io, e qui abbiamo lì un unico ci sarà problema. Un punto d'incontro. No, abbiamo un unico problema, oltre ai sogni e al coraggio che lui ha richiamato, serve una terza componente, che sono i soldi, che non ci sono. E per fare le riforme che Renzi dichiara di voler fare, che i io soldi condivido, ci vogliono. Ne servono tanti, ma siccome debiti non possiamo farne, dobbiamo toglierne da alcune parti. Ma lei è favorevole alla patrimoniale? Guardi, di una forte patrimoniale agli evasori sono favorevole, di altre patrimoniali ai grandi no. Capitali no. Senta, una cosa, lei con Renzi comunque una fortissima ragione di scontro l'ha già avuta sulla legge, sulla web tax, che Renzi ha violentemente attaccato, proprio mettendoci la faccia. Lei la riproporrà? La web tax è già in vigore. Ma voglio dire, la tracciabilità sì, è in vigore dal 1 gennaio e ha già portato nelle casse del nostro paese oltre 130 milioni. L'anno scorso le stesse aziende tutte insieme avevano pagato 6 milioni. Ecco, io vorrei che le multinazionali del web pagassero e magari il salumiere, il commerciante, il barista un po' meno, pagasse molto meno, oltre al lavoratore dipendente. E mentre la parte contestata, io mi auguro che Renzi abbia contestato solo la seconda parte, perché sulla tracciabilità ho avuto già ragione io, certo, la parte contestata, quella spostata da tempo, Letta sì, al primo luglio, no, attenzione, le do una notizia, è dentro il cosiddetto decreto Salva Roma, che questa mattina rischia di decadere alla Camera, perché la crisi ha allungato i tempi della conversione di questo decreto. Come è noto, Lega e Movimento 5 Stelle sono in aula a fare ostruzionismo. Il decreto scade venerdì mattina. E quindi venerdì potrebbe non farcela. No, il governo Renzi è al primo bivio, deve decidere stamattina se mettere la fiducia su un decreto del governo Letta o farlo decadere e fare entro venerdì un nuovo decreto. E io non penso, diciamo, avesse voglia di esordire con un decreto salva Roma il governo Renzi. E quindi decadrà. Se decade, non c'è il provvedimento per Roma, non c'è il provvedimento su molti enti locali, non c'è il provvedimento sugli affitti d'oro, tra l'altro voluto dal Movimento 5 Stelle, e la parte di web tax contestata entra subito in vigore. Senta, una cosa ancora, lei ha detto che avrebbe avvisato il sindaco di Napoli del rischio di default per Napoli. C'è un rischio commissario a Napoli? Beh, è sotto gli occhi di tutti la situazione. No, ma lo chiedo a lei perché ho letto che stamattina ha fatto un'intervista. Beh, io avevo fatto nel 2008 una relazione riservata al sindaco Iervolino dicendo alcune cose, e all'epoca la condizione era migliore. Ma adesso c'è il rischio commissario per Napoli? A mio avviso sì, ovviamente questa è una scelta delicata che va assunta dalla politica, anche qui bisogna assumersi la responsabilità. Mario Secchi, una domanda per lei. Sì, secca. Si vota tra un anno? Quante probabilità? Spero di no, temo di sì. Ah. Grazie onorevole Boccia, grazie moltissimo per la sua franchezza. Ecco, Renzi e Letta non ce l'hanno fatta a convivere. Nella Chiesa invece due papi convivono e si aiutano. Il sempre è anche un per sempre. Non c'è più un ritornare nel privato. La mia decisione di rinunciare all'esercizio attivo del ministero non revoca questo. Non ritorno alla vita privata, a una vita di viaggi, incontri, ricevimenti, conferenze, eccetera. Non abbandono la croce, ma resto in modo nuovo presso il Signore crocifisso. Non porto più la potestà dell'ufficio per il governo della Chiesa, ma nel servizio della preghiera resto, per così dire, nel recinto di San Pietro. Era il 27 febbraio dell'anno scorso quando Papa Ratzinger annunciò al mondo le sue dimissioni. L'ipotesi di avere due papi viventi sconvolse non solo la cristianità ma il mondo. Antonio Socci, giornalista, il 12 febbraio ha scritto su Libero un articolo molto chiaro. Il titolo era «Le dimissioni del Papa forse non sono valide». Il Papa oggi risponde in modo diretto e perentorio con una lettera alla stampa. Ecco, Antonio, hai detto il problema della validità canonica delle sue dimissioni è enorme. Il Papa però smentisce. Fine del problema? Pronto? Allora, sentiamo la lettera del Papa intanto che richiamate Socci. Sentiamo cosa ha detto il Papa alla stampa oggi, pubblicato in prima pagina. Non c'è il minimo dubbio circa la validità della mia rinuncia al Ministero Petrino. Unica condizione della validità è la piena libertà del mio gesto. Speculazioni circa l'invalidità della rinuncia sono semplicemente assurde. Continuo a vestire l'abito bianco soltanto per una questione di praticità. Lo porto in modo distinto da quello del Papa. Sono grato di poter essere legato da una grande identità di vedute e da un'amicizia di cuore al mio successore. Ecco, Antonio Socci, buongiorno. Hai detto il problema della validità canonica delle dimissioni del Papa è enorme. Il Papa ti ha smentito oggi con la stampa. Fine del problema? Ma diciamo, lo stile Vaticano in genere è quello di non smentire mai le cose inconsistenti. Il telefono è caduta la linea, per cortesia, provare. Hai sentito Mario? Sì, no, ho sentito le cose che stava accennando Antonio. Abbastanza clamoroso. Beh, questa, è clamoroso. Questo botto e risposta, il Papa sì. Che risponde all'articolo, a tre articoli per la verità, tre articoli sì. Di Antonio Socci. Ma io ho seguito ovviamente con grande attenzione questo tema, che in realtà era diciamo presente fin dall'inizio delle inedite dimissioni. Di Papa Benedetto XVI e in effetti c'è una convivenza tra i due papi, no? C'è uno scambio continuo anche di opinioni, messaggi eccetera. Ma, e qualcuno Antonio, pensava però... qualcuno pensava che la cosa diciamo fosse in qualche maniera fammi usare la parola ordita, cioè che allora, avesse un senso. Sentiamo l'ordito, come dici tu. Se c'è o non c'è, Antonio, la linea è tornata. Ecco. Dicevo, il Papa ti ha smentito, è la fine del problema? No, io devo dire che sono rimasto molto sorpreso perché lo stile in genere, Vaticano in genere è quello di non smentire mai le cose inconsistenti, le cose campate per aria. Certo. Quindi diciamo il fatto che arrivi una smentita è così autorevole mi preoccupa, anche perché smentisce qualcosa che io non ho mai detto. Io non ho mai detto che il Papa non aveva preso liberamente quella decisione, perché lo ha affermato certo. Lui l'11 febbraio l'abbiamo fatto risentire, sì, hai visto. E io stesso nel mio articolo dicevo non è assolutamente ecco ma tu hai scritto, Antonio, tu hai scritto anche il Papa, c'è addirittura un patto segreto fra i due papi, ma segreto no, su allora, cosa? Io ho parlato di un segreto fra i due papi. Sì, vabbè, diciamo, un segreto che, fra i due papi, cioè, sì. Ha a che fare con lo status attuale di Papa Benedetto. Nella storia della Chiesa non si erano mai date dimissioni per anzianità, no. E fra l'altro abbiamo visto sabato scorso sta che benissimo, sta sì. Molto bene, quindi diciamo per già fortuna. Su quello c'è un punto interrogativo. Io interpreto un po' il nostro lavoro come un non accettare le versioni ufficiali e porre domande, ecco, esatto, altri, quello che facciamo altri anche noi interpreto come fare le guardie svizzere, quindi diciamo, su questo c'è un problema, c'è una differenza in secondo luogo nella storia della Chiesa non c'è mai stato un Papa emerito, cioè quindi non c'è mai stata la coesistenza di due papi. Faccio l'esempio di Celestino V nel XIII secolo e Gregorio XII nel XV, loro rinunciando al pontificato tornarono al loro status precedente. Ecco, Antonio, proprio a proposito dell'emerito, su come chiamare Papa Ratzinger dopo le dimissioni, c'è stata una lunga discussione. Padre Lombardi prima aveva detto che non si chiamerà Papa emerito, poi si è smentito qualche giorno dopo. E secondo te cosa c'è dietro questa confusione iniziale? No, beh, la stessa civiltà cattolica, prima che Benedetto... No, ecco, ma cosa c'è secondo quelli dietro? No, c'è, il punto interrogativo è questo, perché c'è una motivazione teologica che non è stata spiegata. La stessa spiegazione che Papa Benedetto ha dato a febbraio, nel discorso del 27 febbraio scorso, il giorno prima che finisse il suo pontificato, quando ha detto rinuncio all'esercizio attivo del ministero, che però non viene revocato... E beh, anche questa è una cosa che dal punto di vista teologico, canonistico, eccetera, è tutta da spiegare, ecco, tutta da capire. Ecco, tu nei tuoi articoli adombri un'ipotesi di ragioni misteriose che hanno spinto Ratzinger... Allora... No, scusa, lasciami fare la domanda, sì, perché ho letto con attenzione quello che hai scritto. Sì. Dov'è il nucleo di questo mistero, secondo te? Allora, il pontificato di Benedetto XVI è stato avversato fin dall'inizio, in maniera durissima, anche all'interno della Curia. Lo dimostrano quel documento che è stato fatto uscire pochi mesi dopo il conclave relativo alle votazioni, esatto, da parte di cardinali che avevano tra l'altro giurato sul Vangelo di non far uscire alcuna notizia, un documento che fra l'altro insinuava anche una delegittimazione del Papa appena eletto, sostenendo... E quindi di questo, no, d'accordo, adesso è la risoluzione. No, da lì si è dipanata tutta un'opposizione interna ed esterna alla Curia, che poi ha avuto anche dei momenti assolutamente clamorosi. Ecco, dunque, noi abbiamo visto però nella Basilica di San Pietro sabato scorso una cosa davvero sorprendente, perché questa straordinaria presenza pubblica in un momento così significativo, il terzo abbraccio pubblico fra i due papi, sembra quasi una forma strana di diarchia. Però io voglio farti sentire quel documento a cui hai fatto riferimento tu sulla dichiarazione di Ratzinger. In questo momento io posso dire soltanto: pregate per me perché io impari sempre più ad amare il Signore, ad amare sempre più il suo gregge. Pregate per me, perché io non fuga per paura davanti ai lupi. Ecco, Antonio, questa è esattamente. Hanno vinto o perso i lupi? Questo è difficile da dire, però è lecito porre una domanda. Qui ci sono tante domande a cui noi non siamo in grado di rispondere. Per esempio, il vaticanista che ha interpellato Ratzinger avrebbe potuto chiedere... Tornielli della Stampa. Avrebbe potuto chiedere il perché di una convocazione così urgente e veloce come quella che venerdì sera Papa Francesco in persona ha fatto a Benedetto. Cioè lui l'ha chiamato, no, questo per allora, i nostri ascoltatori, allora il Papa... Papa Benedetto aveva detto: io mi ritirerò e sarà come morto per il mondo, no? Quindi non apparirò più in occasioni pubbliche. Sabato scorso, per la prima volta, questo proposito, questa promessa è stata infranta. È stata infranta perché abbiamo saputo che venerdì sera, quindi la sera del concistoro, venerdì sera Papa Francesco ha chiamato direttamente Papa Benedetto, lo ha detto Don Gheorghe, se non è passato attraverso Don Gheorghe, e gli ha chiesto se l'indomani mattina poteva presenziare al concistoro. Perché secondo te, perché era così importante questa presenza, perché questa fretta? Io porrei la domanda, io non so la risposta, ma la domanda mi sembrerebbe più che lecita. No, perché tu fai riferimento alla relazione del cardinale Casper famiglia e dell'accesso ai sacramenti. La mia ipotesi è che il concistoro, che è stato iniziato da questa relazione del cardinale Casper, che doveva limitarsi alle domande come gli aveva prescritto Papa Francesco, invece si è allargato alle risposte, abbia suscitato molto sconcerto tra i cardinali e che Papa Francesco, per tranquillizzare, per rasserenare il clima, abbia mostrato che Benedetto, con tutto quello che rappresenta, eccetera, certo, come dire, con lui in perfetta comunione, in unione, che quindi, come dire, la Chiesa è mani salde di Francesco in perfetta comunione con Benedetto. Ecco, è un'ipotesi mia, ma ad ogni modo la cosa è così straordinaria, anche perché certo, un invito merita una riflessione prima, certo, di fronte all'impegno di non apparire più in occasioni pubbliche, ed è strano, no? C'è Mario Sei che ti vuol fare una domanda, Antonio. Antonio, quanto pesa l'ala ratzingeriana oggi? E insomma, ci sono due papi? No. Allora, ma l'ala ratzingeriana ci sono due papi, rispondo io, no. Perché durante il pontificato talvolta il Papa Benedetto mi sembra che sia stato danneggiato a volte dai ratzingeriani dagli anti-ratzingeriani, quindi diciamo... Il problema è che la domanda che tu poni è anche quella che pongo io, soprattutto dal punto di vista teologico, perché sappiamo che per la Divina Costituzione della Chiesa può esistere un solo Papa, certo, ma noi infatti oggi abbiamo Francesco che saluta Benedetto come Santo Padre Benedetto XVI. E questa cosa è una cosa che dal punto di vista canonistico e teologico non è stata spiegata. Non è stato spiegato in che senso Benedetto ha detto rinuncio al ministero attivo, ma quel ministero... Beh, nella lettera Ratzinger mi sembra che lo spiega, risolve il problema. No, non mi pare che risolva assolutamente nulla. Dice che ha vestito l'abito bianco per motivi pratici. No, parlavo della prima parte del discorso. No, non lo spiega per nulla. No, lui spiega le dimissioni, spiega la questione dell'abito bianco. Dal punto di vista teologico, devo dire, il problema resta aperto. Assolutamente. Sì. Anche io ho notato questa, insomma. Quindi tutte le domande e le risposte che sono state fatte, non soltanto un paio, non lo so, forse... Si riserverà Andrea di pubblicare. Poi Andrea lo conosciamo. Andrea è Andrea Tornielli, il vaticanista della stampa. Andrea, no, perché... è un collega che costa 30 anni, molto bravo. Sì. Molto bravo. Io ho avuto modo di. Abbiamo lavorato insieme. Comunque ne parleremo anche con lui. Io ti ringrazio molto, Antonio. Ci risentiremo sicuramente, perché questo tema è un tema importantissimo, caldo, delicato e che sta a cuore non solo alla cristianità, ma credo a tutte le persone. Grazie Antonio. Mix 24. A te che sei il mio grande amore, ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande, ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. Allora, caro Giovanni, oggi non c'è Pietrangelo perché ha degli impegni e la canzone è toccata a te. E sono sorpreso. Guarda, questa qui, Giovanotti. Questa è la canzone che Sara Tardelli, che ha curato la notizia in 3D, ha dedicato al suo fidanzato. Io non no, c'ho. Sei un mentitore. Questo è il lato vellutato di Minoli. Andiamo avanti, no. Cosa bolle in pentola? Andiamo avanti. Avanti, segnatevela, cari ascoltatori, è tutto rosso. Allora. Cari amici, è un bellissimo pezzo, l'ultimo di William Farrell, è un grande della musica contemporanea, tecnopop, chiamatela come volete, comunque un protagonista, sentite che bello, sentite, vai in regia. E perché siamo happy? Perché c'è una categoria politica della quale io vorrei un po' parlare con te. Magari stimoliamo anche i nostri ascoltatori dicendogli di parlare, mandare sms, telefonare e così via. E il rancore. Beh, insomma, ci sono due scene che a me hanno colpito di questi giorni. Il primo è il rituale passaggio della campanella in cui Letta e Renzi praticamente non si sono guardati in faccia, no? Passaggio molto triste. Abbiamo sentito me. Da Boccia che insomma è dura, una rottura dura. Poi in politica non si sa mai. Ma... Poi ieri, Giovanni, un altro episodio in cui Pierluigi Bersani, bentornato. Pierluigi è andato in Parlamento, però ha detto una cosa secondo me significativa anche questa, ha detto sono qui per salutare Letta, al che ovviamente i giornali che fanno il loro mestiere, i TG pure, hanno tutti titolato su questa frase che marca una distanza. Allora, io bella distanza. Ma allora noi qua abbiamo due distanze, no? La distanza tra il premier uscente e quello entrante, la distanza tra l'ex segretario e il segretario entrante, il protagonista è uno, Renzi, i soggetti sono due. E c'è, secondo me, un sentimento che non è una categoria politica, ma può condurre a errori politici molto gravi, che è il rancore. Tu cosa ne pensi? Io penso che questa è la politica. Bellezza, la politica è durissima, sembra fatta di parole certe volte vellutate, in realtà è violenza, è un po' spessissimo, molto molto dura, ma anche abbastanza logica. 800 24 00 24 il nostro numero di telefono, 349 238 66 l'SMS. E qualche volta bisogna ascoltare i grilli. Tentazioni, cose errate che paiono giuste da prima, ma per quanto ciò che è giusto può sembrare errato a volte, accade che cose sbagliate siano giuste a tempo debito o viceversa. Hai capito? Insomma, Sam Walt Disney, di cui tra l'altro c'è un film adesso che è appena uscito con Tom Hanks che ne racconta la straordinaria parabola. Perché? Perché da una parte abbiamo analizzato, o comunque provato a fare delle considerazioni sul rancore in politica, e dall'altra abbiamo i grilli, anzi il grillo, che durante l'incontro con Renzi, anzi lo streaming online con Renzi, come ricorderai, disse: no, io non sono democratico. Beh, ecco, non lo sono a tal punto che hanno fatto l'espulsione dei dissidenti ieri, no? Insomma, qua si pone un problema. Cioè, questa democrazia che viene dalla rete ha dei problemi nella insomma, sua interpretazione quotidiana, poi dei comportamenti per reali. Per carità, la storia politica è piena di espulsioni, scissioni, figuriamoti, ti ricordiamo il che fai Micacci, intanto per citarne uno degli ultimi. Però c'è qualcosa che secondo me colpisce, cioè il fatto che nel Movimento 5 Stelle, che si dice nuovo, che si dice trasparente, che dice di essere pronto a confrontarsi con tutto, poi non ammette la cosiddetta dissidenza interna. Mario Celuccio da Verona, sentiamo a proposito cosa dice. Dei discorsi che abbiamo fatto, dice: la Chiesa sta diventando una comunità più viva che può dare testimonianza dell'amore reciproco, vedi il Papa. Beh, un'osservazione interessante. Che Francesco sia un personaggio della contemporaneità non ci sono dubbi. Anzi, Marco Di Alessandro dice grande Jovanotti. Direi che è il personaggio. Ovviamente tu con Jovanotti ti sei portato a casa un pezzo di consenso in progress. Io sono contento per te. Però, vabbè, insomma, restano questi temi. Tra la Chiesa, la comunione, della fraternità e invece i dissidi e la violenza, anche come hai citato giustamente tu, della politica, ci sono dei temi. A questo punto noi ci occupiamo di che cosa? Di soldi, direi. L'unico motivo per cui tutti continuano a vivere come dei re è perché noi spostiamo l'ago della bilancia in loro favore. Ma se non lo facciamo, beh, tutto il mondo diventa improvvisamente giusto, cazzo. Ma nessuno lo vuole davvero. Dicono il contrario, ma ti assicuro che non è vero. Vogliono quello che noi abbiamo da dare loro. Ma vogliono anche fare gli ingenui e fingere di non sapere da dove venga. Margin Call, grandissimo film sulla finanza, io lo consiglio sempre, tra l'altro è in programmazione in questi giorni su Sky, quindi chi vuole può farsi una cultura, diciamo, sul tema di Wall Street e i Wall Streeters, ovviamente. E perché? Perché gli americani, chiamato Margin Call, non sono contenti delle banche svizzere, in particolare del Credit Suisse, che è nei guai perché secondo le autorità degli Stati Uniti avrebbe aiutato 22.000 americani a evadere il fisco. Questo è un problema clamoroso che abbiamo pure noi, sì. Questo no, è una cosa grossa. Suisse è davvero un problema grosso. No, è una cosa, è una cosa 22 molto 22.000 americani 22 sul fisco americani. Gli americani poi non scherzano per niente, perché lì se va di le tasse va in prigione direttamente, sì, e buttano anche la chiave, aggiungo, la chiave. Quindi, esatto. Quindi lì il tema delle tasse è serio, però vedrai tra un po', dico agli ascoltatori di stare in linea, di ascoltarci, perché sulle tasse americane ci sono degli insegnamenti importanti, non prima di aver fatto una bella rapina. 33 respira. Che mi fai fare, please? Credevo che volesse visitare la cassaforte e infatti lo sto ascoltando. Falla tossire. Zitto, presto prendi il taccuino. Ma che fai? Il tacchino. Quino, tacquino, quino. Allora Giovanni, qua passiamo dal taccuino al tacchino, passando per l'equino, in realtà i grandi Franco e Ciccio, come svaligiamo la Banca d'Italia e torniamo alle tasse e alle banche e soprattutto alle tasse alle americane. Si annuncia, poi bisogna vedere se lo approveranno, però un cambio molto radicale nella tassazione degli Stati Uniti. Il chairman repubblicano che sta disegnando questa riforma ha messo nel mirino gli asset delle grandi banche. L'obiettivo per gli americani, udite la cifra, cari ascoltatori che siete in macchina al volante, avete le scadenze fiscali e così via, e far pagare alle imprese e alle persone fisiche il 25%. 25%, avete capito bene. Voi sapete che la tassazione media reale per un'impresa italiana in realtà è un modico 68%, quindi insomma c'è qualcosa che non va. E come? Qualcosa di clamoroso proprio. E vediamo al come. Come far pagare il 25% medio alle imprese? E come? Tassando gli asset delle grandi banche americane, quelle che hanno asset diciamo oltre i 500 miliardi di dollari. Un prelievo supplementare in modo da non aumentare quelli il sono deficit. I grandi patrimoni da colpire, almeno su questo in America non ci sono dubbi. Perché qua no, sai cos'è, si sta discutendo di una patrimoniale, ma la patrimoniale sui poveracci alla fine la fai, perché questo è il rischio vero, quindi la patrimoniale attenzione sulle banche, e fatela su chi ha i patrimoni veri. E poi tu hai il telefonino, no? Io ho il telefonino, sì. Tu hai la macchina che fa benzina, senti qua. I got the power, è solo un problema di potenza, caro Giovanni. Allora, Tesla e Solar City Corp vogliono costruire la più grande fabbrica di batterie ricaricabili. E voi direte, vabbè, che business è? Allora, già è un business incredibile per il numero di telefonini circolanti nel pianeta, ma soprattutto perché è il vero grande problema del futuro, l'energia e la sua trasportabilità. Perché se andate nel deserto a bordo di un cammello e non trovate una presa di corrente, voi il vostro iPhone non ve ne fate niente. C'è Giuseppe che torna un pochino indietro e in tema di segni dice: io aggiungerei un altro segnale non verbale, parla del governo di ieri di Renzi. Alfano non era seduto al suo posto ma ascoltava il premier in piedi, di lato. Siamo in clima di lettura di segni, significa qualcosa? Si chiede Giuseppe, glielo chiederemo Alfano non lo quando so. Verrà a trovarci. C'è una disciplina che si chiama la prossemica, esatto, che si occupa di queste cose. Chissà. Non lo so, nel metodo teatrale tu come la interpreteresti? Chissà, la interpreterei con un bel punto interrogativo. Perché insomma, no? Potrebbe essere anche un segnale di distanza. Certamente Renzi è meno consono di quanto lo fosse Letta a Alfano. Senti, non ci sono Storchi da Carpi parla a me, ma per parlare con te dice: a me non risulta alcuna espulsione di dissidenti del Movimento 5 Stelle. Ieri l'Assemblea parlamentare 5 Stelle ha deciso di mettere al voto online l'espulsione di quattro senatori. Questa era la notizia per l'appunto a cui si riferiva Mario Secchi, caro Luca. Quello grazie. È mio caro, purtroppo. Mix 24. Lei andava a 65 km l'ora. Per 15 km non è mica un caso grave. È invece grave, molto grave. Fino a 55 c'è l'ammenda, oltre 55 è previsto anche l'arresto. Ma tu vuoi scherzare? Lontana da me l'idea di scherzare. Lei andava a 65 km l'ora e accelerava sempre di più. E là c'è una curva. Cattivo molto il pizzardone, sordi. Perché lo abbiamo evocato? Perché facciamo anche questo gioco ogni tanto di mettere insieme cose che sembrano lontane, in realtà sono vicine. Multone pagato da Morgan Stanley, 275 milioni di dollari per chiudere una causa aperta alla commissione di vigilanza. Ma su cosa? Avevano fatto una frode, una delle tanti. Guarda, non stiamo a entrare nei dettagli. Vabbè. Sono innumerevoli. Water stress. Cioè, e c'è un interessante studio della FAO, combinato con altri indicatori, eccetera, che racconta insomma lo stato delle piogge e quindi della disponibilità d'acqua nel mondo, disponibilità al metro cubo per capita. Il bicchiere è mezzo vuoto, purtroppo. I paesi con scarsità d'acqua sono moltissimi, quindi vedi come si incrociano i temi: l'energia, certo, da una parte, le materie prime, le risorse, l'acqua in particolare, dall'altra. Che ne so, i paesi con assoluta scarsità d'acqua: l'Oman, Singapore, la Tunisia, la Libia, Gibuti, Maldive, Algeria, Arabia Saudita. Allora aveva ragione Gheddafi, che si occupava soprattutto dell'acqua per la Libia. Ma noi dobbiamo subito andare dal professor Giorgio Simonelli. Professor Simonelli, buongiorno. Dov'era il canone ieri sera? Buongiorno. Questa volta, ancora una volta, ve lo faccio sentire. Grazie. Il canone, più cari che amici, vedere. Buonasera. Eccoci nuovamente insieme per imparare a leggere e a scrivere. Io direi però di più, per imparare a conoscere meglio il mondo e noi stessi. Vediamo se indovinate qual è questa parola. Ma che c'è, la partita? Ma quale partita? C'è sta il maestro. Ancora non indovinate? È una parola che penso tutti abbiamo imparato a pronunciare per prima nella nostra vita, quando eravamo molto piccoli, da bambini. Forse qualcuno avrà già indovinato. Allora, professore, un po' l'abbiamo indovinato. Ieri sera era indubitabilmente su Rai 1, perché la seconda puntata della fiction sul maestro Manzi ha avuto un colpo d'ala. Dopo una prima puntata, diciamo così così, insomma, un po' di attesa, un po' più prevedibile, la seconda è stata veramente bella. Non solo perché ha messo in luce una figura che meritava assolutamente di essere ricordata e soprattutto un'esperienza, un esperimento che meritava di essere ricordato, ma perché ieri ha avuto anche delle soluzioni registiche molto interessanti, con dei voli davvero di una certa fantasia, con un omaggio anche a tutto il cinema del filone scolastico infantile, dall'attimo fuggente ai 400 colpi di Truffaut. Quindi una fiction veramente capace di coniugare di qualità, l'impegno, la recupero della memoria, ma anche con una certa originalità, una grande creatività registica. Allora posso aggiungere una delle mie dica, professore. Solite, quando noi italiani facciamo la fiction, ci impegniamo, la sappiamo fare bene, la curiamo, allora non ci sono né Dr. House, né Lost, né serie americane varie. Il patriota Simonelli. Però è vero, ha ragione, la fiction italiana in realtà, con tante pecche e tanti difetti, ma sta qualche volta davvero facendo risultati interessanti, Giovanni, ma soprattutto qualità di racconto interessante. Posso dire, credo che Simonelli sia d'accordo, quando è fatta bene è l'unica cosa oggi, insieme a qualche buon film che finalmente sta uscendo, che disegna l'immaginario del paese. Non c'è dubbio. Poi dobbiamo aggiungere una cosa: era anche pericoloso, perché in fondo era la RAI che parlava di se stessa, parlava di un se stesso di molti anni fa, su cui c'è ormai steso una patina di nostalgia, però era sempre imbarazzante. Ieri sera c'erano alcune figure, i funzionari, gli uomini dello spettacolo, i dirigenti, il maestro insomma in qualche modo perseguitato o sospettato, e quindi insomma non era facile raccontare questa parte. Invece questa parte è stata raccontata con una certa ironia, con un certo distacco, con qualcosa un po' che ricordava, non so se ricordate, Guglielmo il Dentone, il film con Alberto Sordi. È sempre riemerge Sordi, sempre Sordi. Il tono anche ha raccontato tutto. Un'altra idea centrata, quella di non fare la biografia lineare, ma di scegliere due anni, il 1946 e il 1960, due anni simbolo, due anni di snodo della vita italiana. Grazie professore. Servizio pubblico significa anche raccontare la diversità. Ed è la missione di Otella 6 Stelle, un programma in onda su Rai 3. Sara Tardelli ha intervistato il regista. Claudio Canepari, sei il regista di Hotel a 6 stelle, che va in onda su Rai 3, ed è un format svedese. Ma mi racconti come è nato questo progetto? È nato da Ilaria Dallatana, che si era appassionata di questo formato. Mi ha chiesto di andare con lei, me l'ha fatto vedere, mi era piaciuto. Siamo andati da Vianello e poi siamo partiti. Raccontami anche di che cosa parla Hotel a 6 stelle. Guarda, è il racconto della prima esperienza lavorativa di sei ragazzi down in un grande albergo. Ma che cosa ti ha convinto? Il fatto di girare una docufiction, perché ti piaceva l'idea appunto di fare una specie di documentario di sei puntate, o perché invece ti ha convinto la sfida di lavorare con loro, che comunque sono persone non avvezze per esempio alla telecamera, immagino? Tutte e due le cose. Da una parte, come dire, quello che faccio io di solito è raccontare delle storie. In questo caso qui è stata una bella esperienza perché, a differenza nostra dei normodotati, sono assolutamente privi di sovrastrutture e filtri, per cui sono limpidi, ti dimostrano con le espressioni, con i comportamenti, veramente quello che pensano, quello che gli passa per la mente immediatamente. E questo in un racconto docu è una cosa bella, una cosa preziosa. Come avete selezionato i vostri sei protagonisti? Li abbiamo selezionati insieme a un'associazione importante che si chiama IPD, che sostanzialmente aiuta le persone down a inserirsi nel mondo del lavoro. Visto che l'hai vissuto, no, anche tu quasi da protagonista, il loro inserimento nel mondo del lavoro, qual è la barriera più difficile per loro da superare nella nostra società per entrare nel mondo del lavoro? È la disponibilità dei colleghi e dell'ambiente che gli sta attorno, ossia, mi spiego, loro hanno in realtà delle grandissime capacità e il problema è riuscire a trasmettergli il mestiere in un modo a loro comprensibile, cioè bisogna parlare in un modo molto semplice, lineare, dire una cosa per volta. Avendo presenti queste cose, se uno si comporta bene, loro sono assolutamente sulle spugne. Dopo questa esperienza, che cosa ti piacerebbe che rimanesse al pubblico di Hotel a 6 Stelle? Sono stato la settimana scorsa a trovarli, ho visto i tutor dell'albergo, il direttore, tutto, e tutti loro ci ringraziavano, cioè il personale dell'albergo ci ringraziava dicendo, cioè, avete portato una botta di energia, di vita, cioè stiamo vivendo meglio. Da quando sono arrivati loro noi ci divertiamo di più a lavorare, ecco. Questa è una cosa bella, sì, è una cosa che sarebbe bello passasse, e spero che passi nelle puntate che abbiamo fatto, nel lavoro che abbiamo fatto. Grazie. Ciao. Mario, un'ultimissima? Sì, Matteo Renzi è arrivato alla scuola media Coletti a Treviso, vabbè, grande folla, ha dribblato la scorta, è andato a salutare la gente, è in corso l'incontro con gli studenti e speriamo sia positivo e bene per tutti. Marina Milone oggi, come sempre, ci racconta una nuova storia, una vicenda umana, sportiva, straordinaria, quella di Tiberio Mitri, il pugile campione mondiale nato a Trieste e protagonista assoluto nella box degli anni 50.